Italia in controluce, la politica nel tunnel. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta. Giornata di riflessione e di contatti telefonici per il premier incaricato Enrico Letta. I nodi da sciogliere per arrivare alla formazione della squadra di governo sono ancora tanti, ma è solo questione di tempo. L'esecutivo si farà, garantisce Berlusconi, e dalle ultime notizie sembra proprio che forse la giornata importante sarà quella di domani. Letta dovrebbe sciogliere la riserva e probabilmente ci potrebbe essere il giuramento della nuova squadra di governo. Ma da dove dovrà cominciare a lavorare il nuovo governo? Riforme istituzionali o crescita? È quanto chiediamo ai nostri ascoltatori. Al 349-238-6666 è possibile mandare un sms, 349-238-6666. Ma prima del cosiddetto Toto governo e delle linee programmatiche, ricordiamo che la nascita dell'esecutivo dipende molto dal Popolo della Libertà. Berlusconi si è detto ottimista. Accanto a me Andrea Viali. Allora Andrea, il Cavaliere al momento non sembrerebbe porre, almeno ufficialmente, particolari condizioni? Sembra proprio così, Vincenzo, anzi da Silvio Berlusconi stamattina è arrivato di fatto un via libera al governo Letta. Il governo si farà, ha detto in un'intervista al TG.com. Il Cavaliere, che lo ricordiamo si trova ancora negli Stati Uniti e rientrerà comunque in Italia in serata e entro domani dovrebbe incontrare il Presidente del Consiglio incaricato, un incontro evidentemente molto importante dopo il quale Letta potrà sciogliere la riserva. Ma sentiamo cosa ha detto Berlusconi. Stato lungamente al telefono con i miei, mi hanno detto che le cose procedono bene, che non si è parlato né di ministeri né di nomi ai ministeri, ma che si è parlato soltanto delle cose che devono essere fatte e che sulle cose da fare da parte del Presidente incaricato c'è stato un atteggiamento molto positivo. Quindi sono venuti via da questo incontro, che è durato credo quasi due ore, molto confortati. Sul programma mi è parso che non ci fossero problemi veri, e naturalmente non possiamo pretendere che ci sia un accordo al 100%, però li ho sentiti molto confortati, e anche Brunetta per esempio era assolutamente convinto del buon esito dell'incontro. Poi adesso vedremo, perché ecco, una cosa ho sentito da parte del Presidente della Repubblica, che naturalmente sente questo come un governo basato sulla sua responsabilità, c'è l'indicazione di membri del governo che siano di nuova generazione, con una notevole presenza di donne, e quindi vedremo. Questo esclude naturalmente il sottoscritto, che però non ha mai avuto la voglia di entrare lì. Soltanto se fosse stato necessario mi avessero chiamato a un impegno, dato che ho preparato io tutto il programma durante la campagna elettorale che abbiamo diffusamente illustrato a tutti gli italiani per 40 giorni, se ci fosse stato bisogno di me io sarei stato naturalmente a disposizione, ma preferisco così. Così dunque Berlusconi dagli Stati Uniti. Il Cavaliere al momento esclude una sua partecipazione diretta all'esecutivo Letta, sempre il Cavaliere dagli Stati Uniti abbiamo sentito, quindi la situazione è abbastanza tranquilla. Il Popolo della Libertà è uscito confortato comunque dagli incontri con il Premier incaricato. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 qual è la priorità per il Paese, la crescita economica oppure le riforme istituzionali. I nostri primi due ascoltatori, Robby da Milano e Antonio, non sembrano avere dubbi. Antonio scrive crescita, crescita, crescita. Robby scrive direi crescita, dato che se andiamo avanti così non ci sarà più lavoro per nessuno. Quindi abbiamo visto con Berlusconi la posizione del Popolo della Libertà. Più nebulosa mi sembra, Andrea, invece la situazione del Partito Democratico, anche perché, lo ricordiamo, l'intera segreteria del PD è dimissionaria. In tutto ciò Renzi torna a parlare. Sì, è così. Il Partito Democratico è ancora alle prese con le spaccature che sono emerse nel voto sul Quirinale e ora rischia di dividersi anche su Letta perché alcuni suoi esponenti hanno minacciato di non votare la fiducia ad un governo che comprenda anche ministri del Popolo delle Libertà. Il clima dunque è ancora molto nervoso, anche se in un'intervista a Sky, lo dicevi, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, si è detto comunque fiducioso oggi sulla capacità del partito di ricompattarsi. Sentiamo le sue parole. Io credo che si debba avere, come dire, un atteggiamento per cui se ne fa uno alla volta, per carità. Adesso facciamo il governo. Per come credo verrà fuori un bel governo. Certo, in una cornice difficile, di difficoltà oggettive, ma credo che il presidente incaricato stia lavorando bene. Ovviamente con il sostegno delle forze politiche, con l'aiuto del presidente Napolitano, ma stia lavorando bene perché è persona che conosce il valore di tanta bella gente in Italia che può dare una mano. Quindi questo governo, a mio giudizio, sarà un buon governo. Il governo che verrà fuori presenterà le proprie linee programmatiche alla fiducia, diciamo, al dibattito sulla fiducia. L'idea che già qualcuno dica io a prescindere non ti voto mi sembra sbagliato. Invito tutti i deputati del Partito Democratico ad ascoltare ciò che il Presidente del Consiglio Letta verrà a dire, andrà a dire in Parlamento e poi cercheremo di capire le ragioni, cercheranno i dirigenti del partito di capire le ragioni del dissenso. Oggi mi sembra un tantinello prematuro mettersi a dire io non lo voto comunque, allora io ti butto fuori. Intanto facciamo il governo, poi vediamo che dice e poi affronteremo il problema. Se vuole, però, la mia opinione, credo che la stragrande maggioranza dei deputati del Partito Democratico voterà la fiducia perché e che questo non costituirà un problema per il Presidente del Consiglio. Se qualcuno non la voterà, ci sono le sedi opportune dove fare la discussione. Queste le parole di Renzi sulla situazione del Partito Democratico. Abbiamo ascoltato il sindaco di Firenze, si propone un po' come elemento di mediazione tra i contrasti che ci sono al momento nel partito di largo del Nazareno. Lui dice no a coloro che già anticipano il loro voto negativo nei confronti di Letta, ma anche un no invece a coloro che dicono chi non voterà Letta sarà fuori dal partito. Ricordiamo che trasmettiamo questo nostro controluce qui dalla sala stampa di Montecitorio, dalla postazione di Radio 24. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 349-238-6666 crescita o riforme istituzionali, priorità alle riforme se sono la base per la crescita, non viceversa, scrive Antonio da Benevento, sviluppo e riforme costituzionali non sono scindibili, procedere a tappeto su tutto. Riccardo, iscritto PD dal 94, abbassare il carico fiscale, riforme istituzionali per compensare le minori entrate. Questo governo non può avere priorità perché è senza ideali, Maria Rosaria, elettrice del PD. Veniamo adesso con Andrea Viali all'opposizione a questo governo che si sta intravedendo a guida Letta, Sinistra Ecologia e Libertà, Lega e Movimento 5 Stelle. Andrea Grillo anche oggi è tornato all'attacco. Sì, Vincenzo, Lega, Sinistra Ecologia e Libertà, Fratelli d'Italia, che sono l'opposizione, hanno fatto sapere che faranno un'opposizione costruttiva, saranno cioè pronti a collaborare con questo governo Letta. Molto meno aperto al confronto si è invece mostrato il Movimento 5 Stelle, non soltanto nelle consultazioni di ieri, con PD e PDL non ci mischiamo, aveva detto ieri Beppe Grillo, che oggi ha rincarato la dose. Il governo che si sta formando è una mucchiata degna del Bunga Bunga, ha detto il leader politico dei 5 Stelle, quindi difficile ipotizzare in questo momento una collaborazione fra lui e Letta. Grazie ad Andrea Viali qui dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio e veniamo alla giornata di Enrico Letta. Lo aveva anticipato ieri lo stesso premier incaricato, quella di oggi sarebbe stata una giornata di riflessione dopo le consultazioni con tutte le forze politiche, l'occasione per Letta di mettere nero su bianco i punti di convergenza e quelli che ancora sono i nodi che devono essere superati per arrivare alla definizione di una squadra di governo. Ma vi vorrei far ascoltare un passaggio di ieri di Letta dove da un po' il senso di quale sarà la linea che seguirà nella formazione dell'esecutivo. Ascoltiamo Letta. Vorrei provare appunto a essere a dare risposta rapidamente per evitare di perdere ulteriore tempo. Lo vorrei fare attraverso un governo snello e sobrio nella composizione, un governo che sia in grado, sia fatto di persone che siano in grado di accendere la macchina del singolo ministero immediatamente. Queste le parole di Enrico Letta, qualcuno quindi al posto giusto che sin dal primo giorno di governo possa rimettere in moto la macchina dello Stato per affrontare la crescita e le altre priorità del Paese. Questo abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori, e allora leggiamo gli sms al 349-238-6666. Abbassare il carico fiscale, riforme istituzionali per compensare le minori entrate, Domenico. Voce, rappresentatività e senza voce, commercianti, artigiani, micro, imprese, scrive un nostro ascoltatore. Il senso di responsabilità imporrebbe di pensare al paese, ma forse la legge elettorale è prioritaria per uscire dal pantano, ci scrive Guido da Bergamo. Stimo Enrico Letta, ma allearsi con il PDL è una zappata sotto i piedi, non voto per Grillo, ma hanno fallito, ci scrive un altro ascoltatore. Priorità alle riforme, esse sono la base per la crescita. Un altro SMS. L'Italia in controluce si ferma qui da Montecitorio. Un saluto da Vincenzo Miglietta.